sorveglia la mattina che l'agitazione. Non capivo perché e avevo tanta paura. Tutta colpa della modernità. E scumizia la gente a stufarsi in altri che in manca il potere e mo sempre tegno tutta colpa della modernità. E la plebe la mette tutto in discussione, no che sangue madone che li possa tener tutta colpa della modernità. E pitelli le primi e mi diventa cattivo, no che via d'uscita mandonemo a finir tutta colpa della modernità. Penso mica che penso, mi son proprio sfiga, proprio a mi certe robe le dovea capitar tutta colpa della modernità. Tutta colpa della modernità.